su 10. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamate, si sintonizza l'ascolto. Blecco, blecco. Attenzione, canale 10. Chi è avanti? Chi è che fischia avanti? CQ 10. CQ canale 10. Avanti, Natalino, avanti, buonasera. Buonasera, un cavolo. Mi ho fatto il tampone in farmacia oggi, positivo anch'io. Anche Concetta? E Concetta è dall'altro giorno positiva. Io stavo aspettando, siccome ero negativo, no, stavo aspettando che incubasse. Dopo 3 giorni infatti positivo. E vabbè, sono una settimana vi passa tutto. E già osso, ma è un rompimento di scatole. Sono andato a pigliarmi la pensione fuori servizio alla macchinetta, manco la pensione mi ho potuto prendere, né la mia né quella di mia moglie. Affangualla. Ma non puoi uscire, se sei positivo non puoi uscire. Ma sono andato in farmacia, sono andato a farmi il tampone, mi. E quando ero in farmacia, poi sono andato direttamente lì, alle poste non c'era nessuno, quando sono andato, però era fuori servizio alla macchinetta e me ne sono tornato a casa, adesso non posso più uscire fino a che non divento negativo. Cappa cappa, è un casino, è davvero un casino con questa storia, anche qua nel mio palazzo adesso ce ne danno due. Notifica da Gianni, poniti la mascherina sempre, a me che mi ha fottito di passeggi su di Luigi Condubiano, a chi noi era in carriera, mi viene di Rovrecco, si avvisi una duello, me. Indomani i sintomi, febbre alta, tosse, questo, quello. Mia moglie addirittura l'ha pigliata male proprio, perché mia moglie c'aveva la nausea, il vomito, già ne andavano poco di roba, poveraccia. Pure a noi, io ho sempre il sabre barilla, 37. Cappa, è un casino, Ma prima non se l'aveva presa Concetta, non se l'aveva Concetta prima. Ehi, allora, la Concetta l'ha pigliata Mari, l'ha pigliata, che era a vomiti, diarrea, nausea, non poteva mangiare nulla, è stato un giorno che non mangiava, non ha potuto mangiare niente, poverina, perché come mangiava subito lo rimetteva. Ohia, facciare dai, un casino è Natalino. E adesso cosa devi fare? Devi fare 5 giorni a casa, così che... Quanti giorni devi stare? Ma 7 mi hanno detto. La dottoressa mi ha consigliato, se non ti arriva a 38, la febbre non piglia nulla. La chipirina piglia da solo ed esclusivamente quando ti arriva a 38. Quando supera il 38 allora puoi pigliare la tachipirina. E infatti non ne so biglietti. La mattina ce l'avevo a 37. Va bene, Natalia. Già che sono cose che passano in fretta, non è più come prima che ti portava all'ospedale, adesso è già più leggero, dai. Ma perché abbiamo i vaccini ci siamo salvati. Se non avevamo avuto i vaccini eri finiti a ritirare, mi sa di grido. Io ne ho 3, il quarto non l'ho fatto. E il 3 anche noi ne abbiamo, adesso il 4 non lo possiamo fare perché abbiamo avuto il Covid. Quando divento negativo presento alla dottoressa l'esito, così mi manda il Green Pass nuovo, capito? Cappa cappa. Vabbè, cosa vuoi fare, Natalia? Purtroppo questo è... Questa cosa non si sa se passerà mai. Adesso d'inverno voglio vedere cosa succede. Infatti, io non mi fido a niente. Lo stesso quando sono andato in farmacia, anche se ero negativo, mi ho messo la mascherina ugualmente. Perché dovevo dovevo fare il tampone io. Vabbè, non c'era scritto che dovete mettere la mascherina. Ah, gente, senza mascherina, senza un cazzo. Ma dottor Pisano sì. Invece lì sì, cazzo. Ho detto alla dottoressa, guardi che devo fare un tampone. Si accomodi, mi l'ha fatto subito. Ma perché è responsabilità di loro? Perché poi denunciarli? E lei ci aveva, quando mi ha fatto il tampone, c'aveva gli occhiali, c'aveva, mi ha fatto abbassare sulla mascherina fin qua. Io me la sto portando, ma se no il signore non deve abbassare. E allora, lei non usano il sì positivo. Io che gliel'ho detto, io sono partita con la verità. Gli ho detto, sono venuta perché sono positiva, che mi ha mandato l'infermiere, la dottoressa, perché non me ne voleva fare che dovevo prendere l'appuntamento. Come gli ho detto che ero positiva, gli ha detto a uno, no, questa la deve fare. E infatti mi ha dato subito il tempo, da non a fare niente. Di questa edizione, vabbè. Adesso io ti faccio il tampone sabato, se sei negativa vai e ti fai il tampone in farmacia. Un bel macello. Poi quando si in due malati, di solito succede così, che lo contagia l'altro. Non puoi chi, non puoi va nuda, non puoi da comparare. E io la compro pure la roba. Ci sono quelli denti, Gianni, un disagio pauroso. Il messaggio che ci hanno lasciato, partecipando a questo festival. Ma cosa vorremmo fare? Però hanno fatto male a fare aprile e chiude. Vabbè, è andata così adesso. In autunno si lavora malinghiriti quando inizia lo freddo. E spesa fatta, ne hai a casa? Già metta un paio di casse d'acqua, già ce l'ho un po' di spesa che me l'ho fatta fare da un amico, gli ho detto mettimela nel portone, già scendo io a pigliarmela, non c'entrare tu. Gli ho detto metti solo la spesa e via. Fatto bene. Beh, almeno quello, se non altro, intanto non potete uscire. No, fino a... io il 7 dovrei finire. E mia moglie il 6. Adesso vediamo, se il 6 è negativa la mando a fare il tampone, così lo dà la dottoressa e gli dà il green pass nuovo. Sono andata ieri, ho portato, cambiato il discorso, ho portato la Tyson giù per fare i bisogni, no? Verso le 9:05, perché c'è troppo caldo prima. E praticamente andavamo in via Bonorda, ha cominciato a baggiare su gare, ma cazzo, mi stava a tirare in un modo strano. Ho guardato, era tutto pieno di cinghiali, alle 9:15 c'erano 7 cinghiali in via Bonorda lì mangiando l'erba. Ehi, da Bagetta, nattane da Bagetta che si cinghiali, attane pure a campagna mia da Bagetta. Dalla ferrovia salgo, non mi E praticamente erano tutti grossi, non ce n'era manco uno piccolo, erano tutti belli massicci. Ma io già lo so, non ci sono i cinghiali. Una valida nascane. Quale sta meglio l'inglese? Da dove c'è la ferrovia, mi lì stanno. Ma anche a Badimana ci sono, nella Pinetta. La Pinetta è Badimana, ma sono dei cacciatori che ho detto tutto bene in chipi. E praticamente, ma prima uscivano di notte, Natale, erano le 9:10, 9:15, a caso, quando li ho visti. Infatti si vedevano benissimo, proprio, cioè, poi sono saliti, visto quello spiazzo dove portavano tutti i cavi di via Borva, sono saliti in quella montagnetta, e cioè se ne sono andati verso la parte di cose di su, dove c'è, come si chiama, dove c'è l'ospizio, che adesso non mi ricordo come si chiama, lì su via Maldeta. E sono andati verso lì. Perché non sono disturbati. Però il comune dovrebbe fare qualcosa. Farli abbattere. arrivare un piedi, non lo so, o chiamare dei cacciatori. Almeno li limitano, chissà quanti ce n'è di questi cinghiali, poi portano malattie e tutto. Stanno distruggendo tutto, hanno fatto il tratto all'inglese, no, dove ci sono le rottature, hanno scavato tutto lì. E lo cinghiale come te lo buco, me? Cara, che cosa amara? Al maiale perché li mettono il ferretto nel naso, per non scavare. Se lo permetto, lo so perché si fa il buco e se ne esce da sotto. Nazza, tutto, nazza, rugginghiale, buzzinososia. E stai attenta a non fare avvicinare a Cosomi, perché lui li sente dall'odore, li sente Tyson. A chi bisogna ci veri, ragazzi, va ne ugna. Ugna zanna, che te la aprono da sotto il cane. Occhio. Già lo so, ma si stavano guardando come Tyson abbagliato, si sono girati, io come ho visto abbagliato e pensavo fosse qualche cane, guardate ce l'ha cinghiale, tutto uno più massiccio dell'altro, da 10 anni, tutti i gatti, 7 ce n'era, io ho contato 7, poi se vende da ragazzi non lo so, poi c'è una signora che ha visto il cane abbagliato, dice, come perché sei abbagliato che Tyson, no, ci sta abbagliando i cinghiali, oh, che li vedo adesso, non li avevo visti, ma adesso. Bisogna stare attenti perché è pericoloso già. Perché il cane era distinto, capito, quando li vede di abbaiare. Erano tutti quelli così. E se si vedono attaccati lo aggrediscono il cane. Chi se non hanno paura manco che il cane non li fa nulla. Quindi una zannata ce la prendi due. Ma giudizio dei cani a bestie. Poi sono le 7, cassettate da sola, erano le 7 cinghiali erano. No, io già li ho visti i cani circondando i cinghiali e moschettando dalla coda, prendevano la zampa. I cinghiali cercavano di difendersi, ma non avevano già che lo diranno in 4 o 5. Quando i cani sono belli, i cinghiali musuro è una cosa. Erano tanti cani, erano la caccia, capito? Cioè, lo sai come vanno, che vanno tutti con la campanella e tutti quanti in fila, erano un bel cane. Erano circondati, i cani erano cominciati a muscigare, i cinghiali si girava però. Io lo credo che si gira, già lo credo che si gira. E poi quelli sono cani grossi, sono spinoni, sono quei cani lì, mi sono addestrati per morsicare il cinghiale. E qua c'è un pitbull che lo porta di sera a tardi perché se lo aggredisce gli altri cani. E dice, mi stava raccontando la padrona che dice come faccio a portare, l'altro giorno l'ho portato e si stava avventando il cinghiale, per poco lo rompe il moschettone. E oggi non mi faccio andare un moschettone a metà, ci ha messo la tirighetta, ma tirato di gol, potrà spaccato il moschettone la tagliata. A chi tirami che cosa male, quando vedi un selvatico così, il cane impazzisce. Come vede roba a muovere, le dirighette da voi è una cosa particolare, ma sai cosa fa? La sembra del cespuglio, no, la tocca piano però con la zappa, tac, tocca il cespuglio, tiki tiki, com'è che vuole la pizzighetta? Dare un via, Gugazzo, intendi dare un cano, Gugami, non venuta di va. Se il mio senti ha concetto entrare nel vicolo senza suonare né campanelle né nulla, appena entra nel vicolo io so che è lì, perché lui abbaia cazzo in un modo diverso. E l'altra volta c'era le serrande chiuse, abbaiava, alla fine era aperta e cazzo c'erano i cinghiali sotto proprio di fronte al portone, cazzo, ma era di notte, ma erano verso le due di mattina. Perché adesso non sono disturbati, vanno nei cassonetti della Mondessa a cercare da mangiare, adesso sono abituati e vanno sempre. In campagna mia è pieno di cinghiali. Non ho capito che se il mangiare è facile. E ne salgono dalla ferrovia, da lì, da Basilea, ammazzami, io lo so. Perché io andavo a caccia lì a Tordi, quando c'erano i Tordi, io lo so che i cinghiali sono lì. detto in campagna ce l'avevo, me lo ricordo, mi aveva detto che una volta Angelo l'aveva visto cinghiare. E se voleva fare fusili, che fai, vai, ammazza, non mangiavo di fare, ma qui fa duia. Non lo vedi che lo sparo lo sentono da lontano. Fresco. Che è avanti? Ciao Doppio Rum, ciao Natalino, buonasera, come state? Noi diciamo discretamente, tu come stai, Giova? Già sto bene, dai, già sto migliorando. Meglio così, dai. E io ho una gamba che invece mi stanno problemi. Adesso devo fare la visita all'ortopedico. Mi fa male il femore e il ginocchio. Insomma, state quanti i succhi muniati, insomma. Io già. E adesso ho fatto la lastra, alla gamba e non c'era nulla. L'ho fatto al bacino, ma ho trovato placche, crescenze d'osso in più, eccetera, eccetera. È tutto caso da eliminare questa roba. Se non si chiamava mi deve risultare la rete sicuramente. Ma era un problema che avevi da prima? No, no, assolutamente. Non ho mai avuto io dolori così, così atroci. Sembra che mi sia fratturato. Il nome della frattura tu lo conosci, la stessa cosa. Sì, di punto in bianco. Sì, esatto. Non dormi la notte, non trovi la posizione giusta per dormire, ti giri, ti rigiri e sudi dal nervoso, perché ti va il nervoso che non riesci a dormire. È un casino, eh. Infatti bisogna che più presto faccia qualche cosa, perché sennò cazzo qua finisco male, mi si blocca tutto. Fatti vedere, perché stanno iniziando ad andare tutti quanti in ferie, io lo sai. Vabbè, a settembre si fa. Adesso intanto voglio sapere cosa devo fare. Se c'è una cura da fare, la faccio. Sì, certo. Perché per il momento sto prendendo antidolorifico. Natali, prendi tu e saluta da Giovanni, vai. Ciao Giovanni, mi hai sentito? Io mi ho preso il Covid, io e mia moglie, e ora siamo bloccati e non pure mi sito. Natali, l'ho preso anch'io, sarà più di un mese fa, credimi che non avevo nessun sintomo. Quando mi hanno chiamato, perché avevo fatto il tampone per il preso ricovero, quando mi hanno chiamato mi hanno fatto il tampone. Indomani mi chiama questa qui dall'ufficio, mi fa le domande, dice vaccinato, sì, ho fatto due vaccini, dice il terzo non l'ha fatto, perché c'ho ancora 2-3 mesi di tempo per fare il terzo vaccino. No, dice lo doveva fare. Cazzo, mi chiama l'indomani, dice che ero positivo, e lì ero cazzo, ero zappelli, ancora non mi avevano buccio, non avevano fatto l'operazione, io ero zappelli, no, il luce, tutto cazzo, forse non avevo, quindi, infatti ho avvisato, voi mi usavano in apposta per di più, perché non ho avuto nessun sintomo, proprio niente. E purtroppo è un casino, prima l'ha preso mia moglie e ha contagiato a me, e quindi me lo sono beccato pure io. Va bene, Natalia, l'importante è stare bene, respirare bene, non avere dolori, non avere febbre, tutte queste belle cose che comporta. State bene, spero, grazie a Dio. E a mia moglie l'aveva presa male. Io ho sempre un po' di febbre, ma niente di preoccupante, dai. Allora, almeno tu, diciamo, ti ha preso in forma leggera. E beh, il vaccino ci ha salvati, perché ci avevamo tre vaccini io e mia moglie, se no se ti prendeva in forma più grave era un macello. Guarda Natali, io a questo vaccino ero restio, se non che un giorno mi chiamo un collega che ci avevo quando stavo lavorando a Savona, lavoravo per lui ed ero lì, cazzo, mi manda le fotografie, stava morendo, e addirittura lo stavano ammazzando perché l'avevano ricoverato a Genova, a Gaslini, lo stavano facendo morire, ha preso e se ne è scappato, e oggi, grazie a Dio, ha ripreso a lavorare e si è rimesso alla grande. Sì, l'amico mio ha ripreso, non so se hai sentito cosa stavo dicendo. Ah, ho capito che ho ripreso a lavorare io. Magari, io sono giocando a vecchio, come c'è un fuoco, grazie. Ci sono anche dei punti che mi tirano malamente, sono limitato nel mondo di volte, in due volte non riesco a stare manco in pulla di leva. Comunque, dai. Piano piano, giorno dopo giorno, già livello e miglioramento. Vabbè, con pazienza ci vuole, adesso col caldo non ci voleva. Ma lo sai cos'è? Che avrei già dovuto fare la chimio e la radio già da 6 giorni fa, quasi una settimana. Non riesco a fare. questa maschera. Tanto mi toglie il respiro, me ne scendo, la pressione non riesco a respirare, non clicco nel senso di riuscire a mettere questa maschera. Non riesco a mettere questa maschera, dunque non riesco ancora a fare la terapia. Non si è uscito Gianni, non si è uscito. Ho detto, cos'è una mascherina tipo quello che si mette per il Covid, così? No, è una mascherina che ti prende tutta la faccia e arriva fino alle spalle, è enorme, è grandissima. È tipo un'armatura, un'armatura. Tu immagini un'armatura da guerra, capito? Ho capito. E non c'è appunto per respirare. Sì, lì è tutta quanta bucherellata, però questa mascherina è avventosa. Quando te la mettono, quando te la mettono, a me mi toglie il respiro, cazzo, non riesco, la sopporto 2-3 secondi e mi rialego, mi inavoga nel giudice, non mi basta che tirare, non mi riesco, mi piglia l'ansia e basta, non riesco a ponermi. Non è che soffri di claustrofobia? Sì, quello sì, però diciamo che io posso prendere l'ascensore e tutto quanto senza nessun problema, se devo stare dentro una camera stretta ci sto benissimo, però tieni presente anche che i punti che ho nella gola, cazzo, mi tirano forte, dunque la gola mi tira forte, è come se cazzo tu c'hai una sciarpa, un esempio ti faccio, è come se tu c'hai una sciarpa stretta al collo, stretta, dunque cazzo non respiri già di così, non respiri così, figurati se poi cazzo quando ti mettono questa maschera, è peggio ancora, e siamo a caranda, inchiodata all'orecchio, cazzo, li puoi immaginare, proprio per limitarsi i movimenti, capito? Non riesco a tenerlo. Se magari tu piano piano riesci a settarla, sapeva che devi fare la terapia, se non puoi farla. Avanti, Natali. E chiappa, devono cercare un metodo per fargliela fare questa terapia. E lui non la sopporta questa maschera, perché soffre di claustrofobia. Lì non c'è altra maniera, anche perché loro dopo irradiano, cazzo, devono irradiare proprio nei punti precisi e loro hanno un minimo margine di sbaglio, diciamo, altrimenti si può lesionare la colonna vertebrale, e insomma non devi per forza mettere questa macchina, se non c'è niente da fare. Comunque tutti i giorni tutti i giorni mi torno a casa senza riuscire a mettere questa cazzo di maschera. Tante volte la sua fisica non accetta cose esterne, ma come lo sappiamo, ma magari a volte non riesce a accettarle. Guarda, abbiamo fatto parlare con la psicologa, cioè loro stanno iniziando a pensare che sia una cosa psicologica mia, però cazzo, cioè loro sono anche coscienti dei punti che ho, questi punti tirano in modo impressionante, capito? Dunque mi stanno paziente tutto, capito? Però fino ad oggi non c'è Cristo, non c'è santo, non c'è niente da fare, non riesco a indossarla. Cioè la ferita non si sta richiudendo? Sì, la ferita è chiusa, abbiamo tolto i punti esterni, tutto quanto, ma c'ho i punti interni anche, e quelli si stanno rimarginando, e dunque i punti stanno tirando, il tessuto si sta ricompattando, capito? E tira, cazzo, ti sto dicendo, è come se tu ti metti una sciarpa al collo e te la stringi a morte, e vedi che non riesci a respirare, o se vestiti poco, capito? Non ti basta l'ossigeno che hai, con questa maschera io quando la metto non mi basta l'ossigeno, e mi ho sempre la sensazione di collassare, di si abbassa la pressione proprio, divento bianco. Sì, ma succede anche a me queste cose qui, lo so, perché a volte ti senti come oppresso, qualcosa del genere, quando infilo certe cose, tipo maglie con lo stretto, no, che devi, a volte non ce la fai tanto in lunga, ma che lo vi massa, e rimani così, capito, ti manca proprio il respiro. Bravo, hai capito proprio bene, comunque mi ha detto che praticamente lo provano tutti questa cosa, succede a tutti così, però poi con l'andare del tempo, dai, prova oggi, dai, prova domani, il problema si risolve, capito? E magari, dai, ma magari domani ce la fai, se devi andare domani magari ce la fai, ti devi mettere in testa di riuscirci, capito? Credimi che ci sto provando, e prima non riuscivo neanche a stare dritto nel letto, a pancia in su, non ci riuscivo, rimanevo mezzo minuto, adesso riesco a starci quanto voglio, adesso devo soltanto cercare di riuscire a tenere questa maschera e poi si può iniziare. Questa maschera che cos'è? Per fare radiazioni? Sì, è per fare le radiazioni. Radioterapia sarebbe? La... Sì, radioterapia e chemioterapia, però la devono, si deve tenere, si deve bloccare questa macchina, si deve impedire qualsiasi movimento, capito? Perché tu non ti puoi muovere neanche di un millimetro, devi stare fermo, capito? Perché se no loro con la radiazione possono lesionare altri organi. A me lo sai quando me l'ha fatto quello che stai dicendo tu, quando mi hanno fatto l'attacco? Quando ti hanno infilato dentro il tubo? Esatto. Io non mi posso vedere chiuso. No, io di problemi invece non ne ho. Io ti ho detto, è il problema che ho i punti che mi tirano maledettamente. Mi soffocano i punti, capito? Ed è soltanto quello il mio problema. Se io non avrei avuto questi punti, con la maschera l'avrei tenuta tranquillamente come niente fosse, però purtroppo no. I punti mi tirano tantissimo, mi tirano, mi sento sempre soffocare, anche in questo momento, capito? Mi manca l'aria, non mi basta l'aria che prendo. Ma i punti dove ce li hai? Sotto la gola. Ho capito. Ma io ero rimasto della bocca, però non sapevo. Avanti, Natali. Sì, Cappalà. Riprendete voi che io devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Oh, Natali, in campagna tua bisogna munire giù per il boccato, guarda, Ma va a Natale, per voi. Ciao, Natale. Stai andando quel QTH sempre? Stavo andando. Ah, va giù il Covid. Il principe delle fiabe. Cappa, vabbè, adesso no, vabbè. Ma io stavi andando, va. Avanti, Giovanni. Deve essere, non mi ha sentito, Natalino. Gli ho detto che bisogna mettere dei giubbi per boccato in campagna Giulia. E deve avere chiuso, boh. Non sta più entrando nessuno la sera, sta scendendo tutte le sere, non vedi più. No, io la verità non ne stavo niente riaccendendo, non ne stavo, anche perché fuori non posso prendere sole, capito? Poi giunto fuori si soffrendo poco niente, esco la mattina fresca e si può dire basta, poi me ne rientro, non ne so più. E a me lo dite che se non mi si dura dall'acqua non posso manco stare in piedi. Ieri sono andato a vedere a coso, come si chiama, ma non mi viene il nome, vabbè, comunque c'era una cantante a Porto Torres che adesso non mi viene il nome, e dovevo stare appoggiato al palo, se no mi mangiava i lanci. Certo, credo che anche tu le gambe vogliono dire molto, anche tu insomma cerca di farti vedere al più presto e risolvere questo problema. No, io sto facendo già tutto, ho fatto le lastre, se domani devo portare il dischetto al dottore di famiglia e da lì mi farà fare l'attacca, la risonanza magnetica e poi mi manda una volta che lo vedo la risonanza mi manda da ortopedico. Cosa fai se ti devono operare? Cosa fai? Assaccia io da qualche altra parte. Dove me la segno la faccio, stanno mandando da tutte le parti, un po' al Conti, un po' stanno mandando a Frattamora, un po' stanno mandando ad Alghero. E ho capito, dai. E beh, come Baracchini, cosa c'hai? Sempre il solito, quel magno non ce l'hai più? Sì che ce l'ho il magno, c'ho tutto ciò, c'ho il magno, c'ho il Rus, questo che sto usando adesso, poi c'ho l'Intec, c'ho il 2009, c'ho le 69. Non te ne mancano, dai, a me me ne devono regalare uno. E che Baracchini? C'è l'Intec di quelli vecchi però, però c'ha anche le bande laterali. Vabbè, ma quelli sono quelli migliori, quelli vecchi sono i migliori, non prendono splatter, vabbè che tu lo vedi più visibile. No, insieme mi danno anche un microfono da tavola, se ho capito bene, se mi ricordo bene, perché me l'ha detto un po' di tempo fa, solo che ancora non ci sono andato a né a vederlo né a prenderlo. Cazzo, Magari ancora funzionante, chissà. Sì, mi ha detto che sì, l'ha sempre conservato bene, sempre conservato bene. Poi io c'avevo tutti quelli vecchi, li ho visto, li accendevo e quindi hanno sempre funzionato tutto. Sì, ma a volte lo sai, anche se li tratti bene, come li lasci fermi, a volte comincia a gracchiare quando si slume e tutte queste cose qua, sono difitti, dai. Poi magari si riprendono come scaldi. E tu la patente te la prendi oppure no? Bah, io ho questo dolore che se non mi passa mai, ce l'ho fisso, ma dolore, guarda, sto prendendo Ucchio tutto l'aria, l'ho consumato già una scatola di Ucchio, sto iniziando un'altra. No, ti ho chiesto se prendi le patenti, se ti devi prendere le patenti per il baracchino. Non ho capito. Ti ho chiesto se devi prendere la patente per il baracchino. Gatta, no, io no, non mi interessa. Ma tu stai dicendo come radioamatore? Sì, quella che sta prendendo Natalino, Gianfranco, gli altri. No, no, a me non interessa, no. No, io no, non ci vado, no. Non ne ho voglia di andarci, già sto bene. Poi non mi interessa tutto, non mi ha mai attirato, vai. Io ho capito. Aspetta, mi prendo una bottiglia d'acqua. Io al baracchino sto bene. Comunque, visto già, in questo periodo si riesce a parlare con il continente, no? Sì, c'è propagazione. E anche l'altro giorno ne stavo parlando. Io quando sono da Sassari lo accendo, la macchina lo accendo e ti sento sempre parlare. Però non ci ho mai parlato. Ma non ci arrivi con l'antenna che hai? Sì, ci ho parlato un po' di tempo fa, ma poi adesso non ci ho più parlato. Io ti sto dicendo con la macchina, quando salgo li sento parlare. Una volta ti ho parlato, più di una volta ti ho parlato, ma poi non ci sono più entrato. Cappagattà, se che apparecchio stai usando? Sente il coso, il Midland 7001. Ah, perché c'ha la voce barattolosa, mi rimane. Ma il microfono da attaccare, non ne hai? Certo, e poi l'abbiamo fatto Gigi Vulcano, questo del microfono. Che microfono è? Non si legge niente. È tutto... è vecchio, molto vecchio, non si legge niente. Però è amplificato. Amplificato? Sì, amplificato. Oh, io non ho scelto amplificazione. Perché l'ho tolta. Perché? Perché qualcuno mi ha detto che è col troppo, adesso l'ho messa. Com'è? Adesso va bene. Allora dipende da come la regolo io. Devi dare, come c'ha l'amplificazione del volume della radio? Ma no, volume non ne ha. Microfono è? Ti ho detto non si legge niente, non c'è scritto niente, non si legge niente. Ho capito, boh. Non lo so, sì, ma come era stato l'eco già si sentiva diversa la radio, era più bella. Lo so, poi c'ho quel 6009, però non lo attacco neanche, quello ce l'ho dentro casa, non lo porto neanche fuori. Infatti. No, va bene. Come riusciti con questo? Non mi interessa di ormai ci ho messo questo, gli ho messo due bici, due bolloni e vado avanti con questo. Cappagatta. E tu con questo come mi senti? Tu sei sempre uscito bene, con qualsiasi apparecchio che hai messo sei sempre uscito a bomba. Ti sento sempre benissimo. Cappagatta è meglio così, là. Ma poi Giovanni adesso vado, che si devo portare giù il cane, mi lavo, mi faccio la doccia e via. Perché tanto non sta entrando nessuno, cosa la fermo? Adesso la fermo. Va benissimo Giovanni, grazie alla conversazione e alle prossimine tanti auguri per la tua guarigione, ok? Altrettanto Giovanni, ciao, stammi bene, dai. E cerca di riuscirci con la roba di metterci un po' di impegno, magari ce la fai, dai. Già ci provo, già. Ciao, buona serata, già. Ciao, Giovanni, ciao, buona serata a te, dai.